Sai che guardo un attimo, Luca, te non l'hai neanche guardato, perché non mi appare la cosa che l'hai guardato. Mi hai già risposto adesso, non è solo visto. Prova a aprire quella pagina lì. Ecco, attenzione, la prima lezione, ah ecco. Scende giù, vai avanti, c'è scritto lezione 22+1, 22+2, fi 3 e fai. Codice, abbreviazione e regolamenti. Scacciane una di quelle a caso. Allora, lezione 22+2. P2, dai, metti, appare, l'ho aperta io P2, c'è il tipo che ti legge il libro, da Nero Neri legge lui, me. Sì, sì, l'ho visto. No, ti posso dire, ti spiega tutto, perché su certi punti di lettore che è un po' difficile, lui te lo spiega in modi semplici, ti fa anche disegni nella lavagna, te lo fa in modo molto elementare. Se tu riesci a farti per dire ogni giorno 10 minuti uno, 10 minuti dopo un paio di ore, appena c'è il tempo libero, ma no, attacca tutti gli ore attaccato al coso, piano piano, poi facevo io, dice la lezione dura mezz'ora, invece me ne faccio 10 minuti adesso, poi dopo c'ho altri 10 minuti, ma è così, studia la grande, devi partire. Se vuoi partire dalle normative, parti dalla lezione 22 e poi parti dalla 1 al contrario. E la 3 volte l'ho inviato. Me l'hai inviato? Nell'attalino gliel'ho inviato. Quello lì deve rimanere. Guarda, se vuoi un consiglio, Luca, l'amico, questo è il sistema migliore. Perché io dopo che avevo studiato mi ho riguardato questo, è veramente fatto bene. Soprattutto il discorso delle normative, ti spiega benissimo. Sì, sì, beh, non è semplice. Non è una passeggiata, Assolutamente, te lo sto dicendo. Se sei fortunato come la sessione, come quelli che sono andati la seconda sessione, io e Fabrizio siamo andati, e Antonio siamo andati, anzi no, Antonio non c'era, e hanno gribato a tutti. La sessione successiva hanno promosso tutti, hanno fatto domande proprio elementari. Vabbè. Mari di Dizzy, dove si trova Londra, per dire, no? Ma in molta gente non lo sa. No, il discorso, se ti fanno una domanda che hai studiato, va bene, perché io tutto quello che ho studiato lo sapevo, però se ti fai una domanda di un argomento che non hai studiato, perché lì è molto generalizzato il discorso, è un po' più complicata la cosa, tacchio, te lo fanno magari detto in un modo diverso, già il linguaggio che ho usato io per certi versi non capivano niente, nel senso, quando ho parlato di cose, di termini matematici, come cerchi di essere un pochettino più coso, mi ha detto, quando gli ho parlato, mi ha parlato qual era quel sistema per rendere costante il segnale ricevuto, io gli ho detto la GC, come? Non sapevano cosa era la GC, ha detto controllo automatico di guadagno, perché in inglese automatic gain control vuol dire, e non lo sapeva lui. Poi quando è il tipo di emissione dove c'è meno disturbo, io gli ho detto il CW, come il CW? L'altro, l'ingegnere, ha detto sì, è giusto, ha fatto, se parliamo di fonia è la banda laterale SSB dove c'è meno disturbo, se invece parliamo in generale dove c'è meno disturbo è CW, non lo sapeva neanche lui, perché il CW non lo usa più nessuno. Non è il fatto che non lo usa più nessuno, già ci sono i radionatori vecchi che lo usano, io addirittura avevo un bel tocco in CW. Cosa ti volevo dire? L'ho trovato, lezione 1+1, che me l'ha mandato Luca. Allora, parti dalla 22, Natalino, quella 1 quando pure hai fatto le normative ti fai la numero 1, però inizia la 22 per capire, è più facile da capire, è più diretta la cosa, perché sono cose più facili da memorizzare, e poi quando devi metterti effettivamente a studiare parti dalla numero 1, ti parla dalla chimica, fisica, elettroni, eccetera, eccetera, e lì ti fai un'infarinatura, e poi ogni tanto ci sono i quiz, poi alla fine della lezione ci sono i quiz, eccetera, è molto, molto molto spiegato bene, e parte dal libro di Luca, quello che di Nerio Neri, il classico libro verde che tutti abbiamo studiato, e io ce l'ho, ti posso dire, l'ho solo letto, ho studiato altri tre altri di libri più recenti, e secondo me anche più facile. E ci vuole anche il libro delle normative, che adesso saranno cambiate, bisogna studiare il Band Planck, che è cambiato, prima era i 40 metri da 7.050 a 7.100, adesso l'hanno ampliate, hanno cambiato un po' di cose, anche quello bisogna studiare. Sì, ma non ti chiedono esattamente la frequenza, la 7100, la 7000, ti chiedono che CV doppio dove puoi andare, e qual è statuto primario, statuto secondario, che cosa è esclusivo, non è che ti chiedono esattamente, non lo sanno neanche loro, dovrebbero leggere solo il libro, quello non te lo chiederanno mai. Però ti possono fare una domanda, cioè, come si chiama, la banda dei 2 metri a quanto corrisponde, la banda dei 70 centimetri, queste domande te le fanno, ma non è che ti chiedono quali sono i 15 metri, da quanto parte, o i 40 metri da quanto parte, non lo sanno neanche loro. Tu li puoi dire, 40 metri corrispondono alla banda dei coso, dei 7000, se non sbaglio, 7000 hertz, o 7 megahertz, li puoi dire così, non ti chiederanno altro. Ah, se così sì. Cosa ti volevo dire? La telegrafia si trova all'inizio banda di ogni banda. Tuo, e c'è la telegrafia. Mi hanno detto che volevi per me un po'. Ma cadi lì di bussi? Normalmente, però hanno esclusivo, il coso esclusivo, i 10 MHz, da 10.000 a 10.100 a 10.150, quello è statuto esclusivo del CV doppio. E ragazzi, poi c'è lo statuto secondario, perché hanno frequenze che ce l'hanno, che non ce l'hanno primario. Assolutamente, normalmente sono all'inizio di banda di tutto, però ai 10 MHz, dai 10.100 a 10.150 ce l'hanno esclusivo, solo loro possono. Ti fanno domande, se tu, uno con la patente che ci sta più di 3 mesi, cosa deve fare? Domande così mi ti chiedono, se sta uno straniero viene in Italia con una patente e ci sta più di 3 mesi, cosa deve fare? Allora deve dire, deve chiedere l'equivalente patente italiana, se ci sta meno di 3 mesi non deve fare niente. Poi l'AREC, le patenti, la COSO, tutti quelli, come si chiama, la legge numero 259, a cosa corrisponde? Quell'altra legge, adesso mi ricordo, la 102 o 101, che sono riconoscimento delle patenti internazionali nei paesi extra, come si chiama, europei. Poi le zone di come si chiama, nel mondo, quante zone diviso e chi sono le regioni. A me me l'ha fatta quella domanda, mi ha detto, la Germania a che zona appartiene? Vedi, bisogna sapere quelle cose. Io non mi ricordo più nulla, sapevo tutto. Adesso mi devo comprare il libro delle normative, perché così me le studio, quelle lì. E quello di Nero Neri, non ce l'ho più, chissà che fine ha fatto, ne avevo uno o due di libri. E più mi guardo queste lezioni qua, a vedere com'è la situazione. Natali, non ti comprare nessun libro, quel tipo che fa quelle lezioni è aggiornatissimo, perché lui è stato fatto nel 2020, quella roba lì, le normative sono tutte aggiornate, e ti dirige dal libro di Neri, e più le norme, perché fa parte, deve essere qualche presidente di qualche associazione, non lo so, e ti spiega tutte le normative, te le legge uno a uno, dice articolo, numero, cioè, cosa non puoi fare, se per dire senti uno che sta disturbando sulla frequenza, a chi ti devi rivolgere e cosa devi fare, sono tutte spiegate così, ti legge il libro e ti spiega tutte le norme, dal libro di Neri o Neri, con tutti gli aggiornamenti normativi, per quello ti ho detto, quanti alle lezioni numero 22, ce ne sono 4, 22 parte 1, 2, 3 e 4, e poi ci sono i quiz, che sembra la quinta lezione, e ti spiega tutto, basta che ne leggi uno e ti rendi conto che le normative non devi prendere nessun libro. Ehi, ok, andrà bene mera. Allora faremo così. Ti ripeto, è il sistema migliore, io ne ho visto tanti, su internet ce ne sono decine, è il sistema più comprensibile, più elementare, è bello, è anche lui una persona molto capace, spiegando, te lo fa come argomenti molto, cioè te li spiega in modo elementare, e quello è importantissimo. Vai Luca, avanti a te il mic. Un attimo, ascolta, come fai questa cosa canale 5, aspetta. Lasciamo un attimino il bianco, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti su 10. Comunque, in banda laterale, Natali, il 940 gli fa 10-0 al TS2000. E beh, ci mancherebbe che non glielo facesse. In banda laterale è logico che è superiore al 940. Il TS2000 è perché ha tanti modi e fa un po' di tutto, ma non è questo granché confronto. Le HF le fa bene quello là, il 940. Sì, ma anche in ricezione mi sono accorto, sono più belli i segnali, le modulazioni. Sembra che tu ascolti, ma ti posso dire, un impianto a transistor e l'altro un impianto a valvole quando ascolti l'alta fedeltà. È più fedele la modulazione nelle 940, la sento meglio, più corposa. Intanto adesso il TS2000 voglio togliere l'altoparlante l'SP23 perché non mi biasi, serve troppo, troppo scatoloso lo fa come modulazione, gli metto quello del 940 e lo abbino lì, che è molto più fedele. E a 940 cosa ci metti, l'SP23? No, l'SP940 c'ha A e B, posso mettere due apparecchi. Attacca. Allora va bene. Infatti, per quello che è bello, io adesso ci ho abbinato di lì il 940 e il 440 con l'altoparlante, mentre nel TS2000 c'ho l'SP23, ma è troppo scatoloso come altoparlante. E poi c'ho quello grosso della IAESO, a meno che non li metto quello lì, che è bello massiccio. Ma lo provi a vedere come funziona. E l'SP23 lo elimini. Poi riscende di Gabu, cazzo, infatti non sono abituato ad ascoltare VU e HF in contemporanea. Poi uno parlava, Marco parlava in 144 e l'altro in 430, e non so più, ho perso l'orientamento, no? Non c'ero mai abituato a fare tutte queste cose così. Io ho ascoltato tutto, la verità. Oh Marco, non è Marco, scusa, Gianfranco arrivava a bomba, proprio senza preamplificato, gli altri erano 9.40, 9.50, Marco oltre 9.60 arriva, Marco scusa, Gianfranco oltre 9.60 arriva. E te credo, ti ascoltavo bene tutti, la verità, ascoltato. Noi sono passato una serata in radio, solo che adesso trascurano la 27, dove trabilisci uno. No, io già niente, sono entrato anche prima un attimino, non c'era nessuno, forse chi mi ha risposto, forse tu mi hai risposto, no, io già non mi dimentico, c'entro da tutte le parti, tu gli amici ce li ho anche il 27, soprattutto il 27, e mande radio amatoriali, a parte 3 o 4 che conosco, Marco, Gianfranco, Claudio e l'altro come si chiama, Fabrizio e Walter, gli altri non li conosco. Sì, puoi debitare in un certo modo lì, mandare radio amatoriale, non è come la 27, capito? Ma l'unica cosa era un po' che ti devi abituare a segnarti tutti i nominativi, perché sono esci di testa, l'altro giorno ce n'erano 6 o anzi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 erano. Cazzo, devi stare attento quando dai il mic, rispettare i nominativi, perché sotto li dimentichi, me li scrivo infatti. Ma il log ce l'hai cartaceo tu? Mi devo installare questo programma che mi ha detto Marco, vabbè abbiamo fatto solo le prove in V e in U, per cui già non c'è da sbagliare, però dovrò annotarli pure, anche se mi ha detto Marco non è più obbligatorio. Avere il log? Assolutamente che sì, non lo sapevo neanche io, però è vero. Però io lo faccio per coso personale, in modo se Dio vuole tra un anno, due anni, tre anni, è quello che è, dice sì, io ti ho collegato nel 1993 alle 12.30 con un segnale di S5, S9, quello lì. È bello anche ricordarsi, infatti Marco c'ha di buono quello, ha fatto miliardi di collegamenti, quando c'era qualcuno che ha parlato dice tu il primo collegamento, per dire a Claudio, ha detto ti ho sentito nel 1994 alle 18.30 in VHF al canale. E lui ci ha tutto segnato sul computer, tutti i collegamenti che ha fatto. Marco è di lusso. Marco è un tecnico, è una persona seria, diciamo così. E a me mi ha fatto sentire il satellite a 10 GHz del Qatar l'altro giorno. Sei salito a Piazza del Segno? No, a casa sua è. No, io ero a Piazza del Segno, mi ha invitato qualche settimana fa, ha messo la parabola in terra, è stato molto pratico a lineare la parabola, infatti ha detto complimenti, non è uno scherzo allineare col satellite, devi essere molto, molto pratico, diciamo, per cui c'è anche esperienza in quel campo, perché uno non è che si muove, non sai quanta gente che si mette a cercare il satellite e non è semplice, a meno che non c'è vicino, soprattutto questo è un satellite che è completamente fuori allineamento rispetto ai soliti che che tutti guardano, l'autobus da 13 gradi, questa è a 26 gradi, è molto spostata, eppure l'ha trovato subito, ha fatto il collegamento, però l'ha fatto in ricezione unilaterale, diciamo, non bilaterale, però lui lo fa anche, ha costruito questa antenna elica, bellina, diciamo, l'ha visto su internet, e lui però se l'ha costruita per lui. No, su quei campi satellitari a livello mondiale sicuramente. E io e Antonio l'avevamo fatta quell'antenna elica per il satellite e l'avevamo messa nel palazzetto dello sport. Abbiamo collegato la stazione spaziale. Sì, già lo so, ma lui credo che in Sardegna sono l'unico, uno dei pochissimi che ha l'autorizzazione, gli hanno dato una specie di nominativo, un accesso per fare certi tipi di attività. Infatti era partito fuori in continente con un gruppo di radioamatori italiani, non so cosa dovevano, ma ha mandato tutte le cose per ascoltarlo tempo fa. Lo so, Marco mi ha fatto, delle cose che sono antenne, di poli, di spirito, anche io me le faccio. No, lui a livello di antenne poi dice la sua, oltre che è un grande appassionato, nel senso lo fa con molta attenzione, eccetera, eccetera. Poche cose ma buone, come dice lui, quello che lo fa in modo eccellente, poi magari c'è qualcuno che magari può avere attrezzature, chissà che cosa, però a livello operativo non viene, non per, se ci sta ascoltando, glielo dico anche in faccia, non c'è problema. È number one. Sì, io te lo conosco da parecchio tempo, era mio vicino. Perché prima c'è lui, io salgo più su, io sto a campagna più su di lui, quando abitavo in campagna i colpi erano su. Sì, è stato uno dei pionieri, sicuramente ce ne sono stati molto prima di lui, radioamatori, però si fermavano lui, lì nel senso facevano quelle cose solite che fanno tutti i radioamatori, anzi che facevano, però lui è andato avanti già con i sistemi digitali già da decenni, da quando è uscito DS2000, lui stava già lavorando in remoto, eccetera, eccetera, stiamo parlando 20 anni fa, adesso è una cosa normale da 10 anni a questa parte, ma 20 anni fa era all'avanguardia, ha fatto tante cose che... diciamo all'epoca non le faceva nessuno o pochissime, diciamo. Ok, vediamo se è rientrato Luca. Negativo, Luca non riprende. Scusa un attimo, Bianco.